Investire informati. Chissà quanti in questo periodo hanno fatto una riflessione e magari si sono chiesti se non fosse il caso di cambiare conto, di cambiare banca, no? L'ottovolante in cui sono finite in modo particolare le azioni delle banche quotate hanno fatto tornare di nuovo alla ribalta della cronaca lo stato di salute delle banche italiane, per non dimenticare poi le conseguenze del famoso decreto salvabanca di novembre. Ne abbiamo parlato anche lunedì con Roberto Nicastro in una bellissima intervista di Debora. Ricordo che Roberto Nicastro è oggi il presidente delle nuove quattro banche che sono nate in seguito a questo decreto. Potete riascoltare, anzi io vi invito a farlo, l'intervista di Debora a Roberto Nicastro nei contenuti extra di Cuore e Denari, andando naturalmente sul sito di Radio 24. Oggi torniamo a fare il punto sulle nuove norme per la portabilità, cioè lo spostamento del conto da una banca all'altra. Qualcuno ricorderà che dal giugno scorso la burocrazia per questo tipo di procedure è stata ridotta e il passaggio dovrebbe avvenire entro 12 giorni lavorativi, in modo molto più semplice, no? Almeno in teoria. Allora oggi abbiamo invitato con noi Anna Vizzari dell'Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, grazie. Per aiutarci a rispondere a tutti i dubbi sulla scelta di cambiare conto o di cambiare banca. Intanto 800 24 00 24, aspetto le vostre domande. Chiamateci se volete cambiare banca, magari non sapete come fare, magari ne avete già individuato una, ma volete capire se è proprio quella giusta per voi. Raccontateci anche se negli ultimi anni o mesi avete già scelto, no, di spostare il vostro conto corrente e perché. Magari avevano le commissioni troppo alte, oppure il servizio non era soddisfacente, i rendimenti del conto, magari non vi stava simpatico il signore che lavorava in banca con cui avevate a che fare, magari un'antipatia di pelle. Oppure invece sono state le notizie di questa settimana a mettervi in allarme. Allora potete scriverci anche via WhatsApp 349-238-6666. Anna Vizzari, iniziamo ricordando che cos'è la portabilità e soprattutto cosa prevede la nuova normativa per chi vuole cambiare banca. Sì, certo. Allora, la portabilità è una nuova procedura che è stata introdotta nel nostro ordinamento a fine giugno 2015 e a cui sono obbligatoriamente chiamate ad aderire, quindi all'applicazione effettiva, tutte le banche operanti in Italia, gli istituti di pagamento, oltre che Poste Italiane per la sua attività di banco posta. Sostanzialmente questa nuova legge ha introdotto una procedura molto rapida e veloce per poter trasferire le operazioni di pagamento, quindi per intenderci bonifici, gli addebiti diretti che ci sono sul conto corrente, da un operatore ad un altro, chiedendo eventualmente anche la chiusura del conto e quindi il trasferimento del saldo esistente sul conto corrente. Tutto questo deve avvenire, come già detto, in un massimo di 12 giorni lavorativi dal momento in cui il cliente si reca nella nuova banca e compila il modulo per chiedere il trasferimento, e il tutto dovrebbe avvenire attraverso una procedura interbancaria, quindi sostanzialmente gli operatori si mettono in contatto fra di loro e pensano appunto tra di loro attraverso questa procedura al trasferimento delle operazioni dal vecchio conto corrente al nuovo conto corrente. Quindi saranno i due istituti a occuparsi di tutte le pratiche, no? Così dovrebbe essere, sì. E quindi alla vecchia banca non dobbiamo né chiedere un nulla osta né dare giustificazioni, perché... Assolutamente no, e questo sicuramente è un vantaggio, perché sì, comunque il rapporto il cliente lo avrà con la nuova banca verso cui trasferisce il suo rapporto di conto corrente. Questo dovrebbe anche facilitare di più anche il cambiamento. Ma le banche sono pronte per svolgere tutte queste procedure? Non so se mi sbaglio, ma l'ultima volta che ne avevamo parlato mi sembrava che nella normativa mancassero alcuni provvedimenti, insomma ci fosse ancora qualche aspetto in sospeso, o sbaglio? Sì, c'è qualche aspetto in sospeso, diciamo che siamo leggermente in ritardo, nel senso che mancano due decreti attuativi che dovevano essere emanati entro fine luglio del 2015, quindi siamo in ritardo di circa quasi cinque sei mesi, e il Ministero del Tesoro ancora non li ha emanati. Noi abbiamo inviato anche al Ministero le risultanze del nostro mystery shopping, che aveva dimostrato che le banche comunque non sono pronte ad attuare la norma. Sostanzialmente chi si reca in banca a chiedere il trasferimento, se non in pochi casi, si trova di fronte comunque alla richiesta di chiudere il vecchio rapporto con la vecchia procedura e di aprire un nuovo, quindi senza applicare le nuove regole. A nostro avviso questo succede anche perché manca un tassello importante che appunto il decreto dovrebbe definire, che è l'indennizzo per il cliente in caso di ritardo. Il Tesoro dovrebbe sostanzialmente indicare nel decreto a quanto ammonta questo indennizzo, come viene calcolato e come richiederlo. Però appunto al momento nulla è stato, è stato detto a riguardo, e a nostro avviso questo è un tassello molto importante perché dà la possibilità al cliente di chiedere appunto un risarcimento in caso di ritardo, e quindi questo potrebbe spronare anche gli operatori ad adeguarsi alla normativa, come è successo in passato ad esempio con la surroga del mutuo, in cui ricordiamo che il cliente ha la possibilità ugualmente di chiedere un indennizzo se ci sono ritardi superiori al tempo previsto dalla norma, che è di 30 giorni lavorativi dalla richiesta di trasferimento del mutuo. Ecco, abbiamo parlato di movimento nella prima parte della trasmissione, ecco, questo darebbe l'opportunità un po' di muoversi, no? Roberto, buongiorno da Mantova, 800 24 00 24, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie mille, vorrei chiedere una cosa alla vostra esperta. Sì. Quando si apre un conto corrente si vanno intese delle condizioni, dal giorno dopo cominciano ad arrivare delle lettere con delle proposte di modifica unilaterale del contratto, alla quale se non si risponde vengono effettuate, se si risponde vengono effettuate ugualmente. Quindi volevo sapere se è vero quando c'è scritto sulla lettera che in questo modo si può, cioè in questo momento si può abbandonare il conto corrente senza spese, se è vero, ecco. Grazie. Grazie Roberto. Anna Vizzari. Sì, assolutamente sì, è previsto dal testo unico bancario. La banca sostanzialmente può modificare unilateralmente le condizioni del conto corrente, però dovrebbe farlo soltanto per un giustificato motivo esplicitato nella comunicazione che deve inviare obbligatoriamente al cliente, con un preavviso di almeno 60 giorni dal momento in cui le modifiche vengono a essere attuate. In quei 60 giorni il cliente ha la possibilità di lasciare la banca e non gli verranno applicate spese se non quelle normali di gestione del conto corrente. E quindi sicuramente è una possibilità per opporsi insomma a questo, ai cambiamenti delle condizioni economiche. Questo è un po' il problema anche del conto corrente, nel senso che magari si sceglie il conto corrente migliore perché appunto è più adatto al proprio profilo di utilizzo, quello più economico, più conveniente, e poi il cambiamento della banca lo rende in realtà non proprio così ottimale. E a quel punto l'unica arma che ha il cliente è appunto di cambiare operatore cercando nuove condizioni sul mercato. E nel rapporto con la banca la fiducia sicuramente, la fedeltà sicuramente non paga, sarebbe bene attivare la concorrenza, e quindi la mobilità del correntista è fondamentale. È solo nel rapporto con la banca che la fedeltà non paga. Anna Vizzari, ma sono sempre la donna di cuore. No, questo così. È esatto, allora esatto. 800 24 00 24, abbiamo parlato di conto corrente. Noi abbiamo sempre il domandone del giovedì. Siamo pronti? Ok. Allora, qual è in Italia il costo medio annuale di un conto corrente? 800 24 00 24, perché possiamo dare una risposta, cioè accogliere le risposte solamente che arrivano al nostro numero verde, quindi assegnare un libro a chi tra voi ci darà la risposta corretta. E noi andiamo da Adele, che ci chiama da Brescia. Buongiorno Adele, benvenuta. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Lei è fedele, Adele? Molto, molto, molto, molto. A ottobre faccio 45 anni di matrimonio. Brava. Mentre con la banca Anna Vizzari ha detto che non bisogna essere fedeli. È vero, è vero. E questo è veramente perché i bancari non sono fedeli con i loro clienti. Ecco, questo dice Adele. Anna Vizzari, è d'accordo? Sì, come ho detto prima, certo. Purtroppo è così, nel senso che per far valere i propri diritti bisogna utilizzare la leva della concorrenza, quindi cercare di cambiare, magari appunto facendo capire che si vuole cambiare, la banca può tornare anche sui propri passi. E soprattutto informarci, perché se siamo un consumatore attento, funziona sempre così, o un paziente informato, funziona nelle relazioni con il medico, quando andiamo a fare la spesa, funziona anche con la nostra banca, possiamo esattamente difendere meglio i nostri diritti. Allora Adele, ci racconti. I nostri soldi che abbiamo sudato molto. Brava. E di conseguenza non deve essere lei a gestirli come le pare piace, ma come abbiamo anche di consultarci. Adele, bella agguerrita. Allora Adele, la domanda per Anna Vizzari, qual è? Lei pensano che sia una vecchietta di 66 anni che non si interessa, invece si sbagliano di grosso. Brava, allora, mi piace Adele. Allora, per gentilezza, io volevo sapere se fallisse una banca Ypsilon, se io avessi anche due risparmi nella cassetta di sicurezza, se sono al sicuro o se devo preoccuparmi anche di questo. Allora, Anna Vizzari, possiamo dare la risposta ad Adele prima delle informazioni sul traffico o ha bisogno di tempo? No, abbastanza rapido. Che quanto c'è nella cassetta di sicurezza non è di proprietà della banca, ma di proprietà del cliente, quindi se anche la banca dovesse arrivare a un default, alla liquidazione coatta amministrativa, quello che c'è nella cassetta non viene assolutamente intaccato, un po' come quello che c'è sul deposito titoli, sicuramente non viene a essere toccato in alcun modo. Quindi possiamo rassicurare Adele da questo punto di vista. Per il conto corrente c'è comunque un fondo di tutela dei depositi che tutela ogni depositante, anche in caso di default, fino a 100.000 euro per depositante. Cuore e denari. Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni albero che fiorirà cambierà. E voi raccontateci se anche la vostra banca cambierà nel 2016. 800 24 00 24. Volete cambiare istituto? Non sapete come fare? Ne avete già individuato un'altra? Raccontateci anche se negli ultimi anni o mesi avete già scelto di spostare il vostro conto corrente perché commissioni troppo alte, servizi insoddisfacenti, il rendimento del conto. Ne stiamo parlando oggi con Anna Vizzari dell'Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo. Anna Vizzari, gli italiani, diciamo un po' la verità, sono anche un po' pigri, no? E tendono a non prendere in considerazione magari la possibilità di confrontare le offerte delle banche di cambiare istituto, è così? Sì, è così. Diciamo che c'è innanzitutto un problema di informazione, nel senso che spesso non si è neanche consapevoli di quanto effettivamente si spende per il proprio conto corrente, quindi questo è il primo problema. Poi c'è effettivamente un problema culturale per cui spesso appunto non si vuole impiegare del tempo per poter cambiare le condizioni del conto e quindi per cambiare operatore, quindi questo sicuramente è un problema culturale che sarà difficile così da modificare, però diciamo che gli strumenti che sono arrivati anche ultimamente, appunto per esempio la norma sulla portabilità del conto corrente, dovrebbe in qualche modo facilitare, un po' svegliare, convincere i correntisti a cambiare, perché la procedura dovrebbe essere veloce e facile, perché in realtà la problematica che preoccupa di più i correntisti e che quindi un po' li blocca nel cambiare rapporto è il fatto di poter avere dei problemi nel cambiare banca, quindi sostanzialmente bollette non pagate, il fatto che bisogna tenere aperti due rapporti contemporaneamente, per cui i costi ovviamente lievitano. Tutti sono aspetti di servizi e complicazioni varie che insomma magari ci peggiorano la qualità della nostra vita. Uno dice: ma perché devo andare proprio a cercarmele, no? Esatto. In realtà, quindi questa nuova legge in realtà potrebbe risolvere proprio queste problematiche, però peccato appunto che manchi qualche elemento per rendere effettivamente operativa, ed è un peccato perché in realtà aumentare la concorrenza del mercato farebbe bene a tutti, agli operatori e anche ai clienti. Sappiamo che Altro Consumo, Anna Vizzari, ha stilato 5 consigli per scegliere il conto corrente che fa per noi, no? Anche alla luce delle ultime notizie che hanno visto in difficoltà alcune banche, soprattutto alcuni risparmiatori. Pensiamo al decreto salvabanca e alle sue conseguenze, ma anche all'introduzione dal 1 gennaio del bail-in, una direttiva europea che vuole proprio regolamentare gli eventuali fallimenti delle banche. Speriamo naturalmente che non ce ne sia bisogno. Allora, io credo che i nostri ascoltatori sarebbero molto felici di ascoltare almeno questi 5 punti per scegliere la banca giusta per il nostro profilo. Iniziamo dal primo punto? Sì, allora sicuramente quello che non bisogna dimenticare, come dicevo prima, è che bisogna confrontare le condizioni per scegliere il prodotto migliore. Ce ne sono tanti sul mercato e sicuramente c'è un prodotto migliore per come utilizziamo noi il conto corrente. Quindi per questo motivo è sempre bene raccogliere più informazioni possibili. Dove le raccolgo? Cosa faccio? Dove vado? Volendo si potrebbero girare tutte le banche esistenti in Italia, raccogliere i foglietti formativi fisicamente alle agenzie o anche online sui siti delle banche. Per risparmiare tempo io consiglio di visitare il nostro sito altoconsumo.it, dove c'è un servizio che confronta le condizioni e può essere utile per già avere un'idea di quali siano gli operatori migliori. Esatto, prima mi informo sulle condizioni che mi fa la mia banca, perché tante volte non le conosco. E poi questo è il primo passaggio, e poi le confronto e sul vostro sito. Perfetto. Bravissima. In questo momento sicuramente c'è un problema di fiducia nel sistema bancario, per cui molti sono preoccupati ed effettivamente questo potrebbe danneggiare la concorrenza e il confronto, però bisogna ricordare che comunque c'è un fondo di tutela dei depositi, un fondo interbancario di tutela dei depositi che protegge ogni rapporto di conto corrente fino a un massimo di 100.000 euro per depositante. Se il conto per esempio è contestato, la garanzia arriva a 200.000 euro perché ci sono due depositanti e quindi la garanzia è doppia. E quindi questo sicuramente è una tutela per tutti gli operatori, per tutti i clienti, anche in qualunque banca abbiano aperto il loro conto corrente. Questo vale per conto corrente e anche il conto di deposito. E se poi abbiamo un deposito titoli, per esempio, è da dire anche che in caso di default della banca il deposito titoli non è assolutamente toccato. Quindi? E quindi tutto quello che abbiamo depositato sul deposito titoli è assolutamente di proprietà del cliente, non viene essere messo a garanzia del default della banca, rimane nostro senza nessun problema. I problemi si hanno quando si sono comprati, come è accaduto appunto nel caso delle quattro banche che sono fallite, si sono comprati azioni e obbligazioni della banca. Perché a quel punto, come la nuova normativa prevede che gli azionisti e gli obbligazionisti possano essere chiamati a coprire le perdite della banca direttamente, quindi in quel caso il titolo perde completamente valore. Qui si potrebbe aprire un nuovo capitolo sulla, insomma, la vendita un po' confusa e sicuramente non adeguata di titoli ai risparmiatori nel passato, speriamo che non accada più nel futuro. Però appunto questo bisogna dirlo, sicuramente chi ha delle obbligazioni bancarie per alcuni operatori potrebbe essere chiamato a coprire le perdite, insomma, delle banche se dovessero arrivare ad un default. Non e se abbiamo, Anna Vizzeri, se abbiamo chiesto un prestito o un mutuo, andiamo a Claudio che forse da Roma questo vuole proprio raccontarci, esprimerci, raccontarci la sua storia. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Dunque, la fattispecie è questa. Io ho un conto corrente presso una banca dove ho anche il mutuo. E allora, volendo andare nella banca con cui lavoro, con il mio studio legale, evitare le spese della prima banca, ho chiesto a questa seconda banca di accollarsi questo mutuo, però questi mi hanno detto sì, te lo prendiamo ma non ti facciamo le stesse condizioni, condizioni che sono molto convenienti perché è un mutuo che feci 13 anni fa e quindi ora peraltro sto pagando soltanto la sorte capitale, non pago più interessi, ne pago la mia parte, quindi di fatto non mi permettono di poter cambiare conto, cioè di poter trasferire tutto quel conto, io lo tengo apposta per il appunto per pagare il mutuo in questa banca popolare dell'Emilia Romagna peraltro. E devo dirle poi, peraltro, che ho chiesto a varie banche se mi accordavano gli interessi sul conto corrente e dopo averlo chiesto mi hanno accordato un 1%, quindi come dicevate prima, se uno chiede poi alla fine le condizioni le ottiene. Sì. Ecco. Allora, Anna Vizzeri. Sì, è l'annoso problema del conto corrente abbinato al mutuo obbligatoriamente. Allora, bisogna dire innanzitutto che non è necessario avere il conto corrente aperto nella banca che ci ha erogato il mutuo per pagare le rate. Le rate possono essere pagate con addebito diretto oppure con un bonifico sul nuovo conto corrente aperto presso un altro operatore e la banca iniziale non si può opporre al trasferimento del conto, non c'è nessun motivo. Quello che potrebbe succedere è che per pagare le rate possano essere chieste delle commissioni di qualche euro, però questo non incide poi sul pagamento del mutuo, quindi si può chiudere tranquillamente il conto corrente, trasferirlo ad un altro operatore, anzi applicare la nuova norma se fosse possibile, e tenere il mutuo nella banca iniziale senza perdere appunto le condizioni di favore che mi sembra che il nostro radioascoltatore abbia. Questo è il consiglio che lei dà a Claudio e agli ascoltatori che si ritrovano un po' descritti nel caso di Claudio, Anna Vizzeri? Esatto, sì assolutamente, non c'è nessuna necessità di tenere aperto un conto corrente della banca che ci ha erogato il mutuo e se c'è appunto qualche problema io consiglio sempre di fare un reclamo per iscritto, mai limitarsi semplicemente a dei reclami così fatti oralmente allo sportello, sempre un reclamo per iscritto all'ufficio reclami della banca e la banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo e in genere quando appunto ci sono queste pratiche scorrette, queste richieste sicuramente scorrette, un reclamo scritto già smuove la situazione, risolve il problema. Scripta manent. Abbiamo 30 secondi per andare a sentire Alberto dalla provincia di Livorno per la risposta del nostro domandone, che è il costo medio annuale di un conto corrente in Italia. Alberto? Sì, buongiorno. Complimenti veramente per la trasmissione. Penso sia su intorno agli 80 euro. Anna Vizzari, ci è andato molto bravo. Vicino. Molto vicino, 82,20 secondo quanto detto Banca d'Italia. Sì. Bravo. Ecco, questo chiudiamo quindi con questo dato in più, anche questo è da considerare, vero Anna? Sì, assolutamente, questo appunto ci dà un'idea di quanto costa mediamente un conto corrente e quindi può essere anche un termine di paragone per capire se spendiamo troppo per il nostro rapporto. A quel punto guardiamoci sul mercato, andate anche sul nostro sito altoconsumo.it, ci sono dei consigli utili per cambiare senza troppi problemi. Grazie ad Anna Vizzari, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici, torniamo domani alle 10.30 insieme a Deborah Rosciani per una nuova puntata. Buon pomeriggio da Nicoletta.